24 mattino. Alle 8:16 minuti, eccoci qua. 349-238-6666 per i vostri messaggi. L'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Eccoci qua. La manfrina del volume della cuffia. Aspetta un attimo. Ecco, sì, sì, va spero bene. Di non perforarti il timpano. Ecco, esatto, ti prego. Mandami in vacanza serena. E sembra, anche sembra tu. Che facciamo tutte ci le vuoi volte. Andare, ci vuoi andare con una sembra denuncia. Una comica tutte le volte, e ma invece, me lo dice sulla sigla. Mi fa questo gesto. Questa è la prova. La sigla. Che voi non vedete questo gesto che dice alza il volume, alza. E guarda che oggi parliamo proprio delle persone che si alzano, che si sì, alzano in esatto. Volo. No, poi tra l'altro parliamo anche di bambini in aereo. Ti ascolto sì. Con molta attenzione, i miei due hai bambini. Hai intenzione di portarli con te? Sì, certo. Sì, ci sono ovvio. Tante raccomandazioni e ci sono tante precauzioni da prendere. Molte delle volte non ci si pensa in tempo. Arriviamo là, il bimbo comincia a piangere e ad essere anche un po' vero. Spaventato e magari invece... Hai anche cercato informazioni presso la compagnia aerea per capire se i tuoi bambini potessero viaggiare a condizioni economiche agevolate? Certo, tutto. Tutto. Ma li preparo. Guarda, in realtà questo era il tema che noi avevamo scelto inizialmente, volare con i bambini, saper scegliere le soluzioni migliori, però la cronaca ci impone stamattina di occuparci anche di un altro caso, perché molti ascoltatori lo avranno letto dai giornali, molti invece saranno i malcapitati di questa situazione. L'ENAC, che è l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, ha deciso la sospensione della licenza per la compagnia low cost vicentina Maier. Ci sono stati alcuni gravi disservizi negli ultimi giorni, fra cui è quello del caso dei 172 marocchini lasciati a terra e tornati a casa grazie alla compagnia aerea del loro paese, la Royal Air. Questa compagnia aerea di cui stiamo parlando è oggetto di un'inchiesta da parte della Procura di Vicenza per reati tributari e dopo i marocchini in realtà ci sono altre centinaia di passeggeri che negli ultimi due giorni hanno avuto problemi, in particolare negli scali di Olbia e Cagliari, a causa della cancellazione dei voli di questa compagnia. In queste ore si sono attivate Meridiana, si è attivata Alitalia per le cosiddette procedure di riprotezione di questi clienti, quindi in sostanza loro potranno sostituire il loro volo con altri attivati appunto presso queste e compagnie, però è una situazione piuttosto seria che vogliamo commentare stamattina con Pietro Giordano, segretario nazionale della Diconsum, che saluto. Dottor Giordano, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. La commentiamo con Giordano perché sul tema dei viaggiatori via aerea oggi Adiconsum e il Centro Europeo Consumatori organizzano proprio la presentazione di un decalogo e l'attivazione di alcuni help desk per i viaggiatori del trasporto aereo che da domani saranno attivi proprio su molti scali del nostro paese. Allora, quali suggerimenti vogliamo dare alle persone che magari, Giordano, hanno prenotato un volo con Maier e a questo punto rischiano di non poter partire perché la compagnia non può più operare e quindi se non dovesse riuscire a convertire il viaggio con Meridiana o con Alitalia, che cosa si fa? Allora, noi organizziamo questi desk negli aeroporti italiani proprio per informare sui diritti dei passeggeri che troppo spesso gli stessi passeggeri, i turisti, non conoscono. Ci sono precisi diritti che i passeggeri e i turisti possono rivendicare. Questa storia della Maier è una cosa gravissima, anche se era un disastro annunciato. Già da tempo si sapevano le condizioni di questa compagnia aerea e ora ci troviamo in una situazione in cui i turisti o i passeggeri dei voli Maier si trovano con tutto annullato. Addirittura fino a ieri mattina, nonostante si sapesse questa vicenda, funzionava ancora il sito. Oggi noi consigliamo immediatamente i passeggeri di rivolgersi o ad Adiconsum, all'Associazione dei Consumatori, e rivendicare i propri diritti. Ci sono due tipi di turisti in questo momento, di passeggeri: chi ha comprato un biglietto, e questo tipo di passeggero, come dire, rischia molto di più perché in assenza o in possibilità di fallimento della compagnia aerea entra in quel girone infernale in cui, quando ci sono fallimenti, lui, essendo creditore, dovrà sopportare un iter molto lungo per avere rimborsato il biglietto. Se invece il biglietto riguardava un pacchetto viaggi, allora con un tour operator questo specificare che il passeggero può rivendicare, può cambiare il biglietto con lo stesso pacchetto viaggio con un ulteriore pacchetto viaggio. Certo, magari il fatto di essersi attivati con un tour operator forse ci tutela un po' di più, perché lo stesso soggetto, esatto, può dare una garanzia più ampia. Altre raccomandazioni, Giordano? Perché devo sentire anche l'altro nostro ospite. Sì. Questa storia del low cost è una storia che diventa sempre più delicata, perché chiaramente dietro il low cost non sempre si nasconde, ci sono compagnie serie, e le stesse prenotazioni online molte volte, come dire, nascondono anche una serie di trucchi. E troppo spesso si sente, ad esempio, che ci sono voli a 4-5 euro, se poi si va a scavare e si sta attenti alle prenotazioni online, che sono le prenotazioni che maggiormente si fanno in questi voli low cost, ci si accorge che 4-5 euro sono soltanto uno specchietto delle allodole. Poi ci sono una serie invece di costi aggiuntivi. E si arriva quasi in sostanza a pagare un volo. Se non addirittura si arriva a pagare anche oltre il volo normale su una compagnia aerea normale. Ecco, questi sono i consigli che noi daremo oggi, noi presenteremo questo decalogo in una conferenza stampa, e i consigli che daremo nei desk dei maggiori aeroporti italiani. Un'ultima cosa, stiamo tentando un rapporto più stretto con Adiconsum, con ENAC, perché ENAC è l'autority che deve controllare, e questo controllo a nostro avviso deve essere sempre più forte e sempre più serrato, perché in un mercato che sia aperto, un mercato più libero, la pirateria, definiamola così tra virgolette, diventa più facile, e tutto questo deve, questo controllo deve anche impattare il neo ministro del turismo, che noi abbiamo chiesto un incontro che garantisca norme di tutela dei passeggeri. Il mercato va bene, però controllo dello Stato è anche necessario. Devo dire che però, ovviamente, per essere anche corretti, molte compagnie low cost, ci sono quelle che ormai operano in maniera consolidata nel nostro paese ovunque, questo e hanno un comportamento assolutamente irreprensibile. Poi ci sono altri soggetti che invece vivono altre storie, come nel caso di Maier, e in questo caso, se non si conoscono poi queste vicissitudini, che in questo caso sono finanziarie, chiaramente ci si ritrova impelagati in queste vicende e magari così abbandonati a noi stessi negli aeroporti con il volo sospeso senza sapere a chi rivolgerci. Luca Poli, content manager di frequentflyer.it, è il magazine italiano dedicato a chi viaggia con grande frequenza. Poli, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci sono rimasti 2 minuti di tempo, ma magari in un'altra circostanza la spenderò in maniera un po' più ampia, perché volevamo dare anche tutte le raccomandazioni a quelle famiglie italiane che stanno partendo con un viaggio aereo, naturalmente stiamo parlando questa mattina, con dei bambini. Magari c'è qualcuno che ha un bambino da poco e lo fa per la prima volta e non sa bene come comportarsi. Diamo allora qualche informazione utile, a parte la lista delle cose da portarsi, ma proprio nel rapporto con la compagnia aerea, i suggerimenti di questi casi. Ma i suggerimenti di questi casi sono pochi, diciamo, prima del volo in aeroporto e durante il volo, se possiamo definirle. Prima di tutto è molto importante informare la compagnia aerea sempre in anticipo, in modo da preparare l'equipaggio di bordo, per preparare appunto un'accoglienza dedicata, no? Quindi per disporre per tempo le apparecchiature e le attrezzature necessarie, che possono essere seggiolini, scaldabiberon, eccetera. In caso poi si decida di fare un volo a lungo raggio, quindi maggiore delle 12 ore, sopra le 12 ore, sarebbe anche il caso di prendere in considerazione l'opzione di un volo notturno, così da agevolare il sonno del bambino stesso. Poi è sempre avere bene in mente, avere una lista delle cose su cui si può avere necessità durante il volo, quindi spontini, pannolini, salviette umide, giocattoli, un libro, qualcosa che distraga sempre il bambino. E cosa sia anche necessario, scusate, procurarsi che cosa già fornito dalla compagnia stessa. Per esempio, il latte in polvere può essere portato in aereo e poi scaldato direttamente a bordo delle cucine. Ecco, queste le raccomandazioni, diciamo, pratiche. 30 secondi di tempo, ci sono però molte compagnie e poli che per esempio si organizzano anche per l'intrattenimento. Ce n'è una molto divertente, di British Airways, che addirittura convoca un consiglio di bambini per capire se le loro iniziative di intrattenimento durante il volo sono adeguate. Sì, esattamente. La British Airways è una delle compagnie più diciamo più portate per questa cosa, diciamo, per l'intrattenimento a bordo dei bambini. Come diceva lei, si può andare sul sito direttamente della British Airways, c'è l'area dedicata a Family Travel e lì si prendono tutte le informazioni del caso. Io ringrazio Luca Poli, so che l'abbiamo speso poco questa mattina, ma il caso di Maier ci ha imposto di dirottare la nostra trasmissione da un'altra parte. Torneremo però a parlare di bambini che viaggiano, sicuramente sono informazioni che vanno diffuse durante tutto l'arco dell'anno, non solamente durante il periodo estivo. Quindi grazie a entrambi i nostri ospiti, io ridò la linea ad Alessandro Milan e oggi a Salvadanaio continuo a parlare di vacanze. Ah, ecco, vedi che ce l'hai fatta stavolta. Eccoci qua alle 8:31, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: il governatore di Banca Italia Mario Draghi lancia l'allarme, le imprese sono sempre più esposte al rischio usura e sono aggredibili dalle mafie. Draghi ha parlato davanti alla commissione antimafia. Non sono un santo, speriamo lo capiscano anche quelli di Repubblica. Silvio Berlusconi ricorre all'ironia per affrontare il caso D'Addario e le registrazioni pubblicate dal gruppo L'Espresso. E sulla crisi invece il premier dice ormai si è sfogata, ma il CNEL avverte a rischio 500.000 posti di lavoro. Per arginare la nuova influenza il governo sta considerando la possibilità di una vaccinazione a tappeto per tutti i bambini e i giovani tra i 2 e i 27 anni. Sarebbero coinvolte dal gennaio 2010 oltre 15 milioni di persone. Infine per lo sport, nuovo caso di doping nel ciclismo. Danilo Di Luca è stato trovato positivo all'EPO di ultima generazione due volte all'ultimo Giro d'Italia. Rischia ora 2 anni di squalifica. Il corridore, che ha smentito di essersi dopato, dice comunque: se le controanalisi confermano, smetto di correre. E dunque alle 8:32, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Io ricordo quando il 5 maggio ospitammo il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso a parlare dell'emergenza criminalità organizzata, gli feci una domanda: qual è la mafia più pericolosa, quella più invasiva attualmente? Io dico che per ora, per la sua potenza economica, è certamente la 'ndrangheta, seguita dalla camorra. La camorra, quella parte dei casalesi, è appunto quella che è più vicina, fra l'altro, alla struttura della mafia siciliana. Allora, la mafia più pericolosa, la 'ndrangheta. Ieri c'è stata una maxi operazione della Procura di Reggio Calabria. A Roma sequestrati patrimoni mobiliari e immobiliari per 200 milioni, tra questi anche lo storico Caffè de Paris di Via Veneto, in cui c'erano, oggi ci sono le foto di Federico Fellini lì seduto, ma non solo, insomma. E questo ha fatto anche scalpore dal punto di vista del costume, dell'importanza, del simbolo di quel luogo. Poi anche un'operazione in Emilia-Romagna, dove le 'ndrine sarebbero penetrate nel mercato ortofrutticolo. Insomma, io saluto Nicola Gratteri, che è magistrato a Reggio Calabria. Buongiorno Gratteri. Buongiorno. Tra l'altro uno degli uomini più in prima linea, più esposti nella lotta alla 'ndrangheta. Ha scritto anche dei libri molto interessanti e molto educativi per capire come funziona la 'ndrangheta. Gratteri, lei che è abituato a tutto forse non sarà stupito da questo shopping mobiliare e immobiliare un po' in tutta Italia, questa penetrazione della 'ndrangheta in tutta Italia, ma è davvero così? Come dice oggi Grasso in alcune interviste, la capitale nel mirino e forse anche Milano e forse anche l'intera Italia. Guardi, quello che abbiamo visto ad esempio ieri è uno degli episodi di ciò che da decenni molti di noi diciamo, cioè che la 'ndrangheta è presente nel centro, nel nord Italia, in Europa, nel mondo occidentale e compra tutto ciò che è in vendita. Il problema della 'ndrangheta, dell'elite della 'ndrangheta, non è quello di arricchirsi, ma di giustificare la ricchezza che già provento dal traffico della cocaina, dove ha il quasi monopolio in Europa. Per quanto riguarda Roma, cioè, poi vi da dire anche che in quasi tutte le regioni d'Italia, nel centro nord Italia, cioè, la 'ndrangheta è presente con delle strutture ben definite, con i cosiddetti locali di 'ndrangheta. Ci sono tantissimi locali di 'ndrangheta in quasi tutte le città più importanti del centro e nord Italia, in Europa, in Australia, America del Nord e America del Sud. E Roma è una particolarità, cioè a dire, Roma essendo la capitale d'Italia c'è una regola dove non ci sono locali di 'ndrangheta, ma è una Roma città aperta, cioè è una città dove tutti possono fare affari L'importanza è che non ci si calpesti i piedi a vicenda, però non c'è una struttura, un'organizzazione 'ndrangheta divisa in locali come può essere Milano, Volpiano, Buccinasco o Reggio Emilia o Bologna. Mm. Lei ha citato per esempio Buccinasco, che per chi non lo conoscesse è in provincia di Milano, nella periferia. A dire che proprio la penetrazione è ovunque, anche se silente, anche se insomma non si vede ovviamente. Sì, perché noi siamo abituati, noi a dire il vero, anche gli addetti ai lavori, anche i cosiddetti studiosi della lotta alla mafia sono abituati a valutare la presenza o meno di un'organizzazione criminale dal numero di morti o dagli atti intimidatori. È esattamente il contrario, noi sempre abbiamo detto che lo si è visto anche nel periodo dello stragismo, cioè l'andrangheta ha cercato sempre accuratamente ad evitare rumore. Quando l'ha fatto gli è stato solo assolutamente necessario. Duisburg è stato un errore, un grave errore per l'organizzazione criminale. A Duisburg, sì. Che ha costretto non solo le polizie e le magistrature di mezza Europa ad interessarsi dell'andrangheta, ma a farsi conoscere dall'opinione pubblica, quindi a incominciare a prendere coscienza di questa, della pervasività dell'andrangheta. Cioè, paradossalmente, procuratore Gratteri, laddove ci sono meno morti c'è più pericolo, anche se sembra di no, perché lì vuol dire che l'andrangheta sta lavorando in maniera silenziosa. Dove non ci sono meno morte, sempre lei immagini tutte le imprese, il movimento terziario, il trasporto di inerti che c'è in Emilia Romagna ad esempio, che c'è in Lombardia, non è che lì si contano i morti, è raro che ciò accada, e quando accade è sempre un'operazione chirurgica. Io voglio salutare anche Paolo Pollichieni, che è il direttore di Calabria Ora, un quotidiano molto diffuso in Calabria ovviamente soprattutto. Direttore, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. La cosca degli Alvaro è quella maggiormente colpita ieri nei sequestri a Roma. Chi sono? Può aiutarci a capire qualcosa? Ma la cosca degli Alvaro è una cosca che ormai è attrezzata e strutturata in Europa e anche in Australia, giusto per avere un'idea. Molti dei soldi che oggi vengono investiti in Lombardia e a Roma arrivano direttamente dal traffico australiano, ben ricostruito peraltro da un'indagine proprio di Nicola Gratteri, dove l'incrocio tra la cocaina che viene dal Sud America e l'eroina che viene dai paesi invece dell'est viene smistato proprio tramite le cosche australiane. Anche questo non ha sorpreso più di tanto. Il problema è che purtroppo l'attenzione dello Stato e quella dell'opinione pubblica rispetto alla devastante realtà dell'andrangheta arriva sempre 10 anni, 15 anni dopo. Guarda, io proprio su questo volevo farti una domanda. Cioè, stiamo usando da qualche minuto parole che sono sconvolgenti, perché dipingono una realtà sconvolgente, quel quale è. Però ti chiedo, Paolo, visto che scrivete anche tutti i giorni di queste cose, secondo te quanto rimane poi nell'opinione pubblica di quello che si dice, delle denunce che si fanno, di Mario Draghi che dice che le imprese sono a rischio di usura, sono a rischio di essere conquistate dalla mafia, soprattutto in questo particolare? Cosa rimane poi? Ma rimane molto poco, però la disattenzione più grave non è quella dell'opinione pubblica, e lì vabbè c'è anche una responsabilità di chi fa il nostro mestiere, evidentemente non dà una informazione puntuale e compiuta, ma quello che preoccupa è la disoccupazione e distrazione dello Stato. Se tu pensi che dopo l'indagine che è stata fatta nelle scorse settimane per il mercato agroalimentare di Forni, totalmente in mano alla cosca Tripodo, e ancora lì si parla se sciogliere o meno quell'amministrazione comunale in provincia di Latina, e allora veramente per chi fa questo lavoro, per chi fa queste indagini, diventa una lotta contro i mulini a vento. Io iniziavo questo lavoro e già il più grosso ristorante di Roma, che all'epoca faceva furore, si chiamava Il Fungo perché era sistemato al centro dell'Eur su una costruzione altissima e nuovissima, veniva battezzata da una riunione dei capi dell'andrangheta calabrese, e stiamo parlando degli anni 70. Adesso voglio dire, noi conosciamo questa vicenda dell'economia sporca che conquista l'economia pulita, perché l'abbiamo vista in Calabria, dove ormai interi settori sono stati conquistati dall'economia mafiosa. Adesso vediamo replicare questo a Milano, lo vediamo replicare in Lombardia e nel Lazio senza che ci siano grandi attenzioni. L'inerzia della politica, procuratore Gratteri, lei che è un abituato a parlare senza peli sulla lingua, la vede, la nota? Ripeto da più di 20 anni, cioè noi negli ultimi 15 anni abbiamo avuto 4 governi, 2 di centrodestra e 2 di centrosinistra. Dal punto di vista sostanziale ho visto molto poco di quello che sarebbe necessario per creare un'inversione di tendenze. Io ancora non ho visto un'inversione di tendenze, ho visto negli ultimi 15 anni un lento inesorabile sgretolamento della legislazione antimafia, cioè a me pare che un minuto dopo le stragi di Capaci e di Via d'Amelio, quando tutti si sono indignati e Falcone e Borsellino sono stati ascoltati post mortem, un minuto dopo approvata la legislazione antimafia, cioè è fatta entrare in vigore grandi intuizioni come le procure distrettuali, un minuto dopo è iniziato il lento me ne sarebbe sgretolamento, prendendo sempre lo spunto da qualche mio collega, da qualche ufficiale di polizia giudiziaria che ha abusato del potere, e quindi si è preferito buttare l'acqua sporca col bambino anziché cacciare ad esempio il magistrato della magistratura o cacciare il poliziotto infedele. Gratteri, le chiedo, chi ha osservato il provvedimento, chi ha letto il provvedimento di sequestro dei beni di ieri, mi ha fatto notare, dice, che sono spesso registrati nel 2003-2004, vale a dire, ma forse è una coincidenza, ma chiedo anche a lei che ne sa meglio di me, prima dello scudo fiscale precedente, quello del 2002, lei ci legge una coincidenza? No, nella sostanza accade questo, noi dobbiamo entrare in questo ordine di idee. Il 10% dei mafiosi, dei capi mafia, sono l'elite dell'andrangheta, solo i capi mafia sono ricchi, tutti gli altri nascono andrangheti picciotti morti di fame, muoiono sgarristi morti di fame. L'ossessione di questi capi mafia sono quelli di arricchirsi, cioè da 20 anni questi non pensano ad altro, come una macchina da guerra, a giustificare le ricchezze e a inserire, a mandare i figli all'università e a inserire i figli nella borghesia. Oggi i quadri della pubblica amministrazione sono occupati da medici, ingegneri, avvocati, figli di capi mafia. I quadri della pubblica amministrazione sono inquinati, sono pieni, sono saturi di figli di 'ndranghetisti. Il fatto che all'inizio degli anni 2000 ci sia stata un'accelerazione è stato forse anche frutto di congiunture favorevoli, nel senso che negli anni 2000, già alla fine degli anni 90, i grandi cartelli dell'andrangheta calabrese facevano arrivare tonnellate di cocaina in Europa. Cioè noi, quando io o i miei colleghi facevamo errori, facevamo sequestri di cocaina, dicevano sì, ma sempre droga. Forse non hanno capito che un carico, quando va bene un carico di cocaina, è come vincere una lotto, cioè si sistemano 3-4 famiglie patriarcali. Cioè un carico di cocaina vuol dire da 2.000-8.000 tonnellate. Io sono stato pochi mesi fa a Washington e interrogato uno dei capi assoluti del traffico mondiale della cocaina, dice: dottore, noi ci muovevamo con carichi che andavano da 2.000-8.000 kg e quindi lei immagini quanti caffè di Parigi può comprare, con un carico di questo, quando arrivano 8 tonnellate di cocaina sulle coste della Spagna o Rotterdam. Procuratore, ma io le volevo chiedere questo in chiusura, per chi non lo sapesse: il procuratore Gratteri è uno che ogni tanto si prende un giorno di ferie, non è che un giorno di servizio, un giorno di ferie, e che fa? Entra in una scuola, mette insieme tanti ragazzi e gli spiega in Calabria, non solo in Calabria, in tutta Italia, perché l'andrangheta fa schifo, io la traduco così. Farebbe più fatica oggi, visto che lei punta molto sulla questione dei soldi, ha sempre detto: io devo far capire questa cosa dei soldi, proprio appunto che non conviene, è l'unico discorso che i giovani capiscono, non conviene essere andranghetisti. Oggi avrebbe più difficoltà, vedendo appunto Caffè de Paris, locali locali, immobili, avrebbe più difficoltà? No, assolutamente no, non cambia nulla, perché il fatto, quando io parlavo ai ragazzi, essere andrechetista non conviene, io già sapevo del caffè di Parì e so di altri caffè di Parì, non è questo il problema è che mettiamoci in testa che su mille andranghetisti, quelli che hanno i soldi sono non più di 10-12 persone, 15 persone, quelli che hanno cambiato, hanno fatto una svolta dal punto di vista economico, che hanno appartamenti, ristoranti, hanno ville con piscino, macchine da 100.000 euro. Ma questa è l'elite, cioè gli altri, gli esecutori materiali, nascono e muoiono andranghetisti morti di fame, trascorrono 8-10 anni della loro vita nelle carceri di Torino Le Vallette, Bologna Dozza, e si sbattono la testa per 10 anni nel muro, sapendo, avendo coscienza finalmente di essere stati fregati, ma è troppo tardi, perché hanno le loro mogli a casa, mogli di 24, 26, 28 anni, con 2-3 figli che sono delle vedove bianche, che si nutrono di psicofarmaci perché sono delle vedove bianche, perché sono delle donne distrutte, perché non si possono allontanare, non possono cambiare vita, non hanno un'alternativa di lavoro, vengono controllati dai fratelli, dalla famiglia del marito detenuto. Allora, io insomma spero che di questo spaccato, di questi 10 minuti, rimanga qualcosa in più delle solite parole vane che si fanno, parole un po' piene di retorica. Avete sentito parlare il procuratore Nicola Gratteri, procuratore di Reggio Calabria, uno che l'andrangheta la combatte tutti i giorni, come tanti suoi colleghi in prima linea. Così come Paolo Pollichieni, direttore di Calabria Ora, vi ringrazio per essere stati con noi. Eccoci qua, 8:49 minuti. La foto è apparsa con un bambino piccolo, non so, 8-9 anni più o meno gli darei, in tuta mimetica, seduto su una balla di fieno, ha in bocca il fischietto per richiamare gli uccelli e a fianco c'ha un fucile. È la foto che Federcaccia ha scelto per la sua campagna di tesseramento 2009. Presidente Gianluca Dall'Olio, buongiorno. Il presidente buongiorno di Federcaccia. Ho letto che lei si è pentito di questa foto scelta, è vero? Ma credo che sia stata un'interpretazione errata da parte della giornalista. Non è pentito. La risposta mia fu: se vuole che io mi penta, mi posso anche pentire, ma non mi sono pentito. Lei ha tradotto soltanto la prima parte, non la seconda, non sono pentito. Quindi non è pentito di aver scelto in modo più assoluto, insomma, un bambino con un fucile in tuta mimetica. Ci sono state molte polemiche, però, lei lo sa. Beh sì, le ho lette. Su diverse testate, insomma. Non ho sentito quelle televisive per impegni. Ma le polemiche sono, insomma, l'utilizzo di un bambino, associare un bambino a un fucile, alla caccia. In primis volevo dire, noi abbiamo non fatto una campagna nazionale, non è uno spot, non è affissione pubblica. Noi abbiamo distribuito questo manifesto con un messaggio destinato ai nostri associati in tutte le nostre sedi, quindi all'interno delle nostre sedi. Rappresenta in maniera inequivocabile il vissuto della maggior parte dei 700 e passa mila cacciatori italiani, in quanto ognuno di noi ha accompagnato a caccia in quell'età o a età inferiore il proprio padre. E l'invito è di continuare a farsi accompagnare dai propri figli, nipoti, a caccia, perché questo è sempre stato un modello, un modo per trasferire la nostra cultura e la nostra passione, ivi compreso l'etica comportamentale, ai più giovani. Sa cosa c'è? Questo trasferimento, lei capisce bene che... No, lei dice è l'accostamento, è quel fucile a fianco al bambino che forse dice... Il fucile non è del bambino, perché fino a prova contraria in Italia si può usare il fucile a 18 anni, infatti. E negli altri paesi europei a 16, in Francia a 15, in Inghilterra a 14, e solo a quell'età, e nel caso si abbiano ottenuto autorizzazione necessarie e previste per normativa dei rispettivi stati, potranno utilizzare il fucile. A questo proposito, i diciottenni sta fotografando a fianco del bambino perché non si è fatto l'autoscatto. credo che sia proprio il padre. Quindi insomma, la foto, però poi, tra l'altro non è italiano, il bambino non è italiano, il bambino è americano. E il fotografo è americano. Però no, no, è importante queste sue precisazioni, a dire anche che insomma non è pentito, è stata un'interpretazione errata. Tra l'altro con noi c'è anche il senatore Franco Orsi, buongiorno senatore. Buongiorno del Popolo della Libertà, credo cacciatore anche, non ne fa mistero. E, che è uno dei promotori, insomma relatore del disegno di legge in discussione al Senato proprio sulla caccia. Siccome il presidente Dall'Olio ha fatto una questione di età, dice da noi 18 anni, ma è vero che nel provvedimento lei vuole, anche qui tra le tante polemiche, abbassare a 16 anni la possibilità di cacciare? È vero che il provvedimento contiene una norma espressamente prevista dalla direttiva dell'Unione Europea 2008-52 che prevede che la caccia possa essere esercitata con controllo di adulti da minori. Da minori, credo anche sì. Da minori, in questo caso noi saremmo, come ricordava il Presidente Dall'Olio, in fascia alta, cioè tra i paesi che recepiscono ad un'età più elevata e con maggiori garanzie la possibilità di consentire la caccia ai minori. Devo anche dire, questo è un tema che ha fortemente sollevato polemiche e anche impropriamente, a mio avviso, catalizzato l'attenzione della riforma, e quindi abbiamo ritenuto, e c'è un emendamento depositato, di togliere questa norma che difendo sul piano culturale e sì, anche sul piano giuridico. Cioè, mi sta dicendo che sta facendo retromarcia, cioè questo abbassamento a 16 anni? Sì, nonostante la norma sia compatibile, prevista dalle direttive dell'Unione Europea, abbiamo ritenuto di evitare che nella riforma della caccia venisse tutto catalizzato sull'età di accesso all'attività venatoria, e quindi a mia firma c'è un emendamento che riporta a 18 anni l'esercizio dell'attività venatoria. Che lei dice, io lo difendo a livello culturale l'idea di poter abbassare, ma che è? Le polemiche l'hanno convinta ad esistere? Ma guardi, io l'ho sempre detto, la riforma della legge sulla caccia è una cosa troppo importante per il nostro paese, ma non per i cacciatori, troppo importante perché dopo 17 anni noi abbiamo una situazione faunistica e ambientale completamente mutata, abbiamo un'emergenza che è quella dei danni alle produzioni agricole, un'emergenza ambientale sull'esubero, l'eccessiva presenza di molte specie, abbiamo la necessità di riconsiderare la stessa organizzazione dell'attività venatoria nel nostro paese. Questi 17 anni hanno totalmente mutato il nostro territorio, e non era opportuno e non è opportuno che l'attenzione dell'opinione pubblica su una cosa importante, non per la caccia ma per gli equilibri delle produzioni agricole e della presenza faunistica, venisse poi totalmente celata da una questione di età. Però le chiedo in conclusione, senatore Orsi, ieri c'è stato un emendamento presentato dal senatore Fosson, ma votato anche da altri, forse anche da lei, le chiedo conferma, sulla possibilità di inserire lo stambecco nell'elenco delle specie cacciabili, perché si dice il numero dei capi non aumenta nonostante sia vietato l'abbattimento con la caccia. E questo non l'ho capito, cioè il numero dei capi non aumenta, e quindi che facciamo? Cioè, appunto, sarebbe un modo per dire preserviamolo, no? No, non l'ha capito solo lei, perché in realtà è totalmente privo di fondamento. L'emendamento è stato presentato dal senatore Fosson dell'Unione Valdoten, non è ancora stato votato, con parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica. Il quale certifica che le popolazioni di stambecco sono adeguatamente aumentate e certifica ciò che chiunque si occupa della materia sa, cioè che in tutto l'arco alpino, con le attenzioni della caccia di selezione, cioè con un prelievo molto motivato e indirizzato, e tutti i paesi dell'arco alpino hanno attivato il prelievo sul camorra, sullo stambetto. Ecco, no, allora è spiegato male, però nell'agenzia è spiegato male, perché dice il numero dei capi non aumenta nonostante il divieto, e allora cioè, uno sembra se li abbatte poi scompaiono se non aumenta, se l'italiano ha ancora una logica, ma era spiegato evidentemente male. Comunque io vi ringrazio, mi devo fermare qui, sia il senatore Orsi sia il presidente di Federcaccia Gianluca Dall'Oglio, che ci ha dato una notizia, insomma ha smentito quello che era apparso, cioè il fatto che sia pentito per aver scelto questa foto come campagna pubblicitaria. Ci fermiamo qui, i ringraziamenti sono a Laura Marchesi in redazione e anche a Gaia Romani che è stata qui con noi, e Carmelo Lauricella che mi guarda sempre con quella faccia come dire voglio un buon caffè. A questo punto, a domani.